Get into the groove, boy. You've got to prove your love to me. Yeah. Radio 23, Into the Groove, ben trovati amici all'ascolto. Se siete pronti, oggi una puntata pazzesca. L'abbiamo intitolata Arrivano i nostri. Che apertura, ragazzi, con il Tullio mondiale, non solo nazionale, Tullio mondiale. Questo è Tullio d'Episcopo. Questa chiaramente è la sua vena più pop, no? Più quella commerciale, quella che l'ha fatto definire da alcuni colleghi illustri il batterista con la camicia a fiori. Non male. Intanto accomodatevi mentre Tullio si dispone vicino a noi, perché oggi sarà un ospite chiaramente di primissimo piano, perché come anticipato prima di questo lancio così inusuale, oggi si parla di batteristi italiani, perché giustamente mi è stato fatto notare, va bene, racconti dei grandi batteristi, ma sei così esterofilo? Possibile che in Italia non abbiamo dei grandi artisti? Come se ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo a carrettate. L'unica cosa che fino ad oggi, diciamo, mi ha tenuto un po' lontano dai batteristi italiani è che ho ragionato raggruppando per generi, le nostre eccellenze italiane invece sono un pochettino più dislocate all'interno dei vari generi musicali, quindi non facevo un po' fatica, come dire, a trovare una categoria all'interno della quale metterli. Poi dopo ho detto, ma per quale motivo non possiamo metterli sotto l'alveo della bandiera tricolore? E allora eccoli qua. Oggi parleremo di Tullio d'Episcopo, Giulio Capiozzo, Franz Di Cioccio e Naco. Vai, spoilerata la puntata, partiamo subito col parlare di Tullio d'Episcopo. Ne parliamo in maniera, spero, disincantata. Perché? Perché Tullio d'Episcopo per me è probabilmente il più grande batterista italiano, quello che è più famoso all'estero, che ha collaborato con una quantità enorme di artisti. Che cos'ha di particolare Tullio? Ovviamente, oltre alla grandissima capacità tecnica sullo strumento, ha la sua napoletanità, diciamolo una volta per tutte, perché Napoli, questa meravigliosa città, questo luogo che non è soltanto una città ma è un piccolo mondo, è un microcosmo, Napoli ha la capacità di assimilare tutto, digerire tutto e restituirlo personalizzato. E così fa Tullio d'Episcopo, che negli anni del dopoguerra, quando arrivano gli americani, lui assorbe questa cultura del rock, la cultura del jazz, ma la filtra attraverso il proprio sangue napoletano, il sangue partenopeo. D'Episcopo è figlio di una famiglia di batteristi e percussionisti, quindi è uno che è abituato a percuotere, come si dice. Però lui è davvero talentuoso, lui è un mago del ritmo, è uno che ha la batteria ce l'ha dentro, c'ha i suoni dentro, c'ha i colori del mare e del Mediterraneo e c'ha i sapori e i profumi di Napoli. E tutto questo si ritrova nel suo modo di suonare, che è fortemente partenopeo e fortemente d'episcopista, mi viene da dire. Naturalmente Tullio si sposta da Napoli, viene a Milano e a Milano inizia una carriera incredibile, formidabile. suona con praticamente mezzo mondo. Negli anni a cavallo fra il 70 e l'80 d'Episcopo ha suonato in tutti i dischi. Io ho preparato alcune piccole selezioni giusto per farvi capire il tenore delle collaborazioni. Allora, se siete pronti, ad esempio, avreste mai pensato che d'Episcopo ha suonato in questo disco qua? Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Vabbè, insomma, la nostra rettore non era male, no? Vorrei sapere chi ha detto! Ecco, questa è naturalmente Mina che arriva come sempre a piedi pari, ma senti che roba! Mina che canta Battisti, eh? Ecco, al di là del discutibile gusto dei cori alla Alvin and the Chipmunks, anche questo per esempio ha fatto Tullio. Questa poi è un'altra di quegli esperimenti tutti italiani, no? Questo è Adriano Celentano che canta... Hit the road, Jack! Beh, anche questo, insomma, però che voce che ha l'Adrianone. Oppure senti questa, questa... Qualcuno se la ricorda? Io la odiavo, Nicca Costa, mamma mia, come mi stava antipatica sta bambina. Mamma mia, veramente mi stava proprio qua sulla gola Nicca Costa. Comunque, anche questo è un disco che ha suonato Tullio d'Episcopo, incredibile, ma vero, quindi Adriano Celentano, Mina, e poi ha suonato, ma veramente con chiunque, sicuramente avrete in casa almeno una decina di dischi all'interno dei quali ha suonato la batteria Tullio d'Episcopo. E perché si chiamava Tullio d'Episcopo? Perché era il più bravo, era quello preciso in sala di registrazione, era quello che comunque portava un tocco di creatività e in qualche modo sollevava il lavoro degli arrangiatori, perché gli davi un brano da suonare e lui lo colorava alla sua maniera. Naturalmente Tullio è uno molto attento, però, come ho detto prima, alle sensibilità ritmiche che arrivano dagli altri mondi. È uno fortemente mediterraneo e quindi c'ha dentro i ritmi anche appassionati delle sale da ballo, tipo il tango, tipo le musiche dei nightclub. E proprio perché si parla di tango, io voglio farvi ascoltare una collaborazione insospettabile, perché sono straconvinto che quasi nessuno di voi sappia che Tullio d'Episcopo ha suonato con il più grande, come dire, tanghero contemporaneo, quello che ha aiutato il tango a superare la fase dal tango antico, diciamo, al tango moderno, no? Sto parlando ovviamente di Astor Piazzolla, e nel suo pezzo più celebre, forse, ma credo di sì, che è Libertango, i suoni della batteria di questo brano oramai immortale sono proprio del nostro Tullio. Ascoltate qual è la capacità del nostro italiano napoletano di colorare questa canzone qua. Senti qua già il ritmo, il Charleston come portato, con questi accenti. Voi direte, poteva chiamare un argentino, e invece Astor Piazzolla ha voluto proprio il nostro Tullio d'Episcopo. Libertango! Thank you. Allora, la prima qualità, l'abbiamo detto, è quella di essere napoletano, nel senso bellissimo del termine, quindi nel senso di avere questa sua musicalità innata e questa capacità di essere presente all'interno del brano con una fortissima identità personale. Naturalmente Di De Piscopo, che ha avuto un sodalizio artistico molto forte, ancora durevole, con per esempio Billy Cobham, che è uno degli eroi del drumming mondiale, uno di quelli che ha rivoluzionato il modo di suonare la batteria negli anni 70, ad esempio, tanto per dirne una. E c'è, qui ringrazio Massimo, che mi ha fatto una bella segnalazione. Io devo dire la verità, lo sapevo già, Massimo, però ti ringrazio della segnalazione di un bellissimo duetto fra Tullio De Piscopo e Billy Cobham, proprio a Fantastico, condotto da Pippo Baudo. Lo trovate su YouTube se volete, ma magari poi lo mettiamo sulla nostra pagina Facebook. È molto bello vedere questi due giganti della batteria che si sfidano in una battaglia di batterismo. Dicevo, io poi ho avuto anche un po' la fortuna di poter studiare per un poco con il maestro d'Episcopo, ho fatto con lui alcuni seminari e devo dire che è un didatta straordinario ed è uno che ti sa trasmettere tanta, tanta passione nello strumento. E questa è la sua caratteristica più bella e più importante, quella di sapersi ancora divertire. Dopo, non so, oramai 50 anni forse che suona la batteria, ma forse anche qualche cosa di più, d'Episcopo ancora si diverte come un ragazzino e questa sua gioia, questa sua passione, questo suo divertimento dietro i tamburi lo trasmette, perché è uno che non è tanto attento a farti vedere quanto è bravo sulla batteria, ma ti fa divertire, ti coinvolge. Quando suona, suona sempre per te che lo stai ad ascoltare. E poi c'ha, appunto, come dicevo prima, la qualità di essere mediterraneo, un uomo del Mediterraneo, un uomo attento alle sonorità, un uomo attento alle melodie. E tutto questo lui lo ha portato nel suo drumming. Ad esempio, io ho scelto di farvi ascoltare una cosa un po' atipica, perché De Piscopo si è molto divertito anche a suonare la batteria nei contesti sinfonici, quindi della musica classica, trapiantando uno strumento che è assolutamente quanto di più distante dalla visione musicale dei grandi compositori. Lui ce l'ha inserita dentro e lo fa in maniera, secondo me, magistrale e molto molto bella. Abbiamo ascoltato nella puntata scorsa, a proposito del prog, un pezzo tratto adesso di Emerson, Lake & Palmer, si intitolava The Gnome, era accidenti questa tosse, era per l'appunto un omaggio alla musica sinfonica. Adesso questa è presa da Una notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky. La notte sul Monte Calvo è avrete forse anche visto l'animazione della Disney di Una notte sul Monte Calvo, è un pezzo bellissimo. Sentite come è reso da questa bellissima orchestra jazz assieme al maestro Tullio. Vai. We'll be right back. repertorio completo, tempi dispari, accenti, flame, rullate, poi quanta musicalità, quanta melodia, avete sentito i tom tutti intonati, la capacità di star dentro la melodia, dentro l'arrangiamento, quanto siamo lontani da andamento lento. Questo perché ogni vero artista ha più di una pelle, ha più di una capacità, se si è bravi dentro, se si è appassionati di musica, questo siamo in grado di fare. Grazie al maestro Tullio De Piscopo che apre questa puntata. Il secondo dei grandi artisti di cui voglio parlarvi è invece, al secondo il mio modestissimo punto di vista, il più grande in assoluto della tradizione italiana. Sto parlando di Giulio Capiozzo, batterista degli Area. Allora, Capiozzo è, esattamente come De Piscopo, un batterista molto legato all'Italia. Un batterista che ha sempre sostenuto fino all'ultimo giorno della sua vita, purtroppo Capiozzo è scomparso e ci ha lasciato un grande vuoto artistico, ha sempre sostenuto che la specifica qualità dei musicisti italiani è quella di essere degli uomini del Mediterraneo, quindi la nostra tradizione musicale è la melodia, la nostra tradizione musicale è la sonorità, è la capacità di saper elaborare questi suoni che ci vengono poi dal bacino del Mediterraneo. Abbiamo influenze turche, arabe, abbiamo influenze del Medio Oriente, perché la nostra culla culturale è quella, il nostro mare interno è questo. E quindi lui dice: perché io devo misurarmi con gli americani, che sono dei mostri di tecnica, che sono dei draghi, dei giganti, dei rudimenti, e invece devo rinunciare a quella che è la mia personalissima cifra stilistica? Questo non significa, attenzione, trascurare la tecnica dello strumento, perché poi adesso sentirete i pezzi. Capiozzo è un batterista coi controfiocchi, e mi sono limitato a dire fiocchi, perché è uno che veramente lo strumento lo mangiava, però ha sempre detto: io voglio portare nel mondo la melodia dei tamburi. Ed è stato sicuramente il primo in assoluto a creare la world music, cioè quello che dentro il suo drumming ha inserito le sonorità appunto etniche che oggi vanno tanto tanto di moda. Lui poi ha avuto esperienze ad esempio con la musica indiana, che amava particolarmente, continuava a sostenere che la musica indiana fosse un bacino ricchissimo al quale attingere suggestioni, idee e spunti, tant'è vero che poi ha fatto una formazione assieme a Trilok Gurtu, che è il più grande percussionista indiano, insomma almeno il più famoso nel mondo, poi non so se ce ne sono dei migliori, fino là non arrivo, però Trilok Gurtu, detto appunto il mago delle tablas, le tablas sono le percussioni indiane, hanno fatto queste cose meravigliose assieme. Poi lui è andato a studiare con gli steel drummer nelle isole, insomma è andato a esplorare l'Africa. Insomma, Capiozzo è uno che ha veramente masticato tanto ritmo e ce l'ha restituito. Io vi voglio far ascoltare due brani scelti dall'interno del vasto repertorio degli Area, che sono stati la formazione erroneamente definita prog, ma non sono prog, sono davvero avanguardia musicale gli Area, formazione di musicisti formidabili, con alla voce quel grandissimo genio di Demetrio Stratos, altro individuo baciato dal talento, anche lui troppo prematuramente scomparso, insomma stiamo parlando solo di grandi perdite, ma chissà se è vero quel mito per cui i grandi musicisti durano poco perché si consumano in fretta. Non so, io da 1978 Gli Dei Se Ne Vanno, Gli Arrabbiati Restano, che è un disco forse un po' sottovalutato degli Area ma straordinario, ho scelto Interno con figure e luci, che sembra il titolo di un quadro, e in effetti questo è un bellissimo e meraviglioso affresco musicale. La world music, senti, mi permetto di parlare sopra questo capolavoro. Eh? Cos'è la fortuna? Difficile da definire. La fortuna e la sfortuna di essere nati in Italia. La fortuna perché se non fosse stato italiano Capiozzo non avrebbe avuto questa sensibilità musicale. È andato a ripeterlo sempre dicendo che il sole, il calore dell'Italia, poi lui è un abruzzese quindi una testa dura. È quello che... No, scusa, l'abruzzese era un romagnolo, Capiozzo, è una testa dura, aperto eppure ruvido, era un caratteraccio, ma insomma lui aveva questa... voglia di colore, di suoni, questa melodia dentro. Sentito, ma poi sentiremo anche il prossimo pezzo, veramente accordava con una finezza. La batteria per lui è uno strumento melodico. I tamburi erano accordati secondo le loro note naturali ed è molto melodico nel suo modo di suonare. Se però, perché la sfortuna anche? Perché se non fosse nato in Italia, Capiozzo sarebbe uno dei batteristi di punta della storia del batterismo mondiale. Sarebbe in tutti i libri, in tutte le antologie ci sarebbe la musica di Giulio Capiozzo. Perché, credetemi, io adesso non riesco a spiegarmi perché ci vorrebbe più tempo. La nostra puntata è breve. Adesso proverò a lavorare ai fianchi Roberto per vedere se mi concede più spazio. Perché bisogna parlare di più, con più attenzione, focalizzare un po' meglio l'ascolto su questi giganti della batteria. Non è facile liquidarli in due battute. Adesso, ad esempio, io ho scelto un altro brano da Crack, sempre con gli Area, per ascoltare meglio ancora il nostro Capiozzo. E qua sentiamo ancora quell'altro genio, appunto, come dicevo prima, di Demetrio Stratos, che nel primo brano era strumentale, non l'abbiamo sentito. In questo invece, che si intitola La Mela di Odessa, è uno dei brani secondo me più belli per batteria che si possano suonare. Provate insieme a me ad ascoltare la capacità che ha Capiozzo, ad esempio, di giocare sulle dinamiche, quindi i piano, i forte, e poi sulle velocità, quindi come accelera, come rallenta, la capacità di stare dentro, come avete ormai imparato, spero, ai tempi dispari, a queste poliritmie complicate, eppure tutte perfettamente musicali. Questa è la grande eredità che ci ha lasciato Giulio Capiozzo e questo è anche il grande vuoto che purtroppo ci ha lasciato con la sua scomparsa. Avremmo voluto sentirlo suonare ancora per centinaia e centinaia di dischi. Tra l'altro, finita l'esperienza con gli Aria, poi lui ha suonato davvero con musicisti di tutto il mondo, creando cose straordinarie. E oggi ancora esiste un bellissimo festival musicale a lui dedicato. Il figlio, ad esempio, è come nel caso di John Bonham, un figlio d'arte. Il figlio Chicco Capiozzo è un grande batterista e alla memoria del padre è dedicato anche un bellissimo documentario che vi invito ad andarvi a vedere, perché davvero merita per scoprire la qualità di questo straordinario artista ricordato da tutti i musicisti italiani. Ma è partita con prepotenza La Mela di Odessa. Sentite già l'introduzione come parte, giusto per capire con chi abbiamo a che fare. Vai Giulio, facci sognare ancora e ancora e ancora. persona sola se lo stesso chiedendo. C'era una volta una mela a cavallo di una foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono il mare. Impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise. Era la prima volta di ogni cosa. Va bene, lo so, è un delitto, ragazzi, devo tagliarle perché sennò non ci stiamo dentro. Maledizione, ascoltatevela, poi me le rimetto tutte sulla pagina Facebook. Promesso, questa è la mela di Odessa, da crack. Mamma mia, meraviglioso. Giulio, dovrei dedicare a te un'intera puntata, ma neanche un intero ciclo di trasmissioni. Andiamo avanti, parliamo di un altro, perché devo dedicare tempo a tutti quanti. Franz Di Cioccio è un batterista strepitoso, un batterista, per esempio, è uno di quelli che ha segnato la mia adolescenza. Io non mi vergogno di dire che uno dei dischi che mi ha spinto a cercare di migliorarmi nel suonare la batteria è stato il disco dal vivo della PFM con Fabrizio De André, in special modo il volume 1. Rivelerò a tutti quanti, ma forse l'ho già detto, mio babbo è un batterista. Ed era lui che, quando in macchina ascoltavamo quella cassetta, mi diceva: senti qua, ma la capisci sta roba? Io non capivo, naturalmente, una ben amata fava. Però poi, piano piano, col tempo, superati diciamo i 12 anni, ho cominciato ad apprezzare un po' meglio, fino a che, arrivato alla soglia dei 14 anni, quando ho preso in mano le bacchette per la prima volta, chiudo la mia autobiografia, ho imparato ad ascoltare meglio e a capire che cosa è capace di fare dietro i tamburi un mostro dello strumento come Franz Di Cioccio, che è un versatile, un artista che non è soltanto un grande batterista, ma è anche un ottimo cantante, sembra un po' il Phil Collins italiano, no? E poi è un produttore, è un, non so, un fonico, ne fa un milione, dipinge. Franz Di Cioccio, sapete per esempio che il jingle del TG5 l'ha scritto Franz Di Cioccio? Cioè, lo sapevate? Quello del telegiornale, è pazzesco, l'ha scritto lui, ma ti rimane in testa subito perché quello è saper maneggiare la musica. Comunque, per tornare a parlare a bomba del nostro Di Cioccio, è il batterista ovviamente della PFM, la premiata Forneria Marconi, senza ombra di dubbio il gruppo italiano più famoso nel mondo. Non esiste un gruppo più famoso della PFM in tutto il mondo, veramente dal Giappone al Messico, all'Argentina, al Canada, dovunque si vada, la PFM è un gruppo che riempie i palasport, ok? Quindi è nominato fra i migliori gruppi prog della storia del prog, cioè insieme ai King Crimson, insieme ai Weather Report, insomma ci stanno loro. A proposito, Weather Report... un pernacchione, perché dopo aver sentito gli Aria suonare, Joe Zawinul potrebbe prendere e stroncare la tastiera. Comunque, torniamo a Franz Di Cioccio, perché loro, sì, PFM è veramente prog. Che cosa? Ho scelto un pezzo, madonna come sono veloce, ho scelto un pezzo che si intitola È Festa, perché fa proprio capire che cos'è il prog in salsa italiana, cioè la capacità anche di innestare all'interno di questo codice musicale, appunto, che vuole tempi dispari, queste suite musicali, dai, chiamiamole così, sono delle grandi composizioni. La PFM ci infila dentro tutta la tradizione musicale italiana, quindi la melodia, quindi ci sentirete ad esempio dei pezzi che si richiamano alla tarantella, addirittura giocano mettendoci dentro il bel canto, dei pezzi di canto lirico, no? Quindi, come dire, tutta quella che è la confezione, gli stilemi della musica italiana, no? Il bel canto, la tradizione, il folk popolare, loro lo rielaborano in questa loro suite meravigliosa che si intitola È Festa, il primo disco, 1972, Storia di un minuto, uno dei pochi di cui so Vita, Morte e Miracoli. E dietro i tamburi c'è proprio Franz Di Cioccio, che anima e rende immortale questo pezzo. Ascoltiamocelo, va. Senti come parte. E andiamo! We'll be right back. Ecco, in un brano come questo c'è già praticamente tutto quanto il prog italiano, no? Come vi dicevo prima, abbiamo potuto ascoltare la capacità di variare fra una cosa e l'altra, insomma inserirci dentro tutte le suggestioni musicali che sappiamo e poi restituite in salsa naturalmente perfetta. Allora, il nostro amico Franz Di Cioccio ha... per esempio, la cosa che a me piace di più di lui è la cassa, come usa il piede destro. Ha questa cassa sempre incalzante ed è quella che, per esempio, mi aveva appunto, come dicevo prima, sedotto nel disco di André Dal Vivo, no? Il volume 1. Alcuni brani tipo Volta la carta o La stessa bocca di rosa, lui usa la cassa in una maniera meravigliosa, magica. Riascoltatevi quel disco che va ascoltato secondo me tutti i giorni, una volta al giorno, come un mantra, deve diventare una preghiera. Una volta al giorno vi ascoltate almeno un brano di quel disco, ma ascoltatelo, non sentitelo, ascoltatelo, mettetevi lì, meglio ancora se con le cuffie, perché si riesce ad apprezzare tutte le sfumature del suono. E ascoltate la musica, non usatela solo come un sottofondo, vi prego, per favore, ridatele l'importanza che merita, anche perché per fare un pezzo ci vogliono mesi, anni, per farlo di successo ci sono anni di studio, quindi dategli tempo, davvero, dategli del tempo. Andiamo avanti, perché Di Cioccio non è solo PFM, ovviamente, ha suonato con un sacco di altri artisti, perché come capita ai grandi musicisti si ha voglia di quel tocco lì, di quel suono lì. Una delle cose, delle esperienze che a me sono sempre piaciute molto di più, attenzione, non più della PFM, io PFM la mangerei veramente senza pane, ma una delle sue cose che mi ha sempre colpito sono i dischi con Lucio Battisti, incredibile ma vero, ed è per questo che le canzoni di Battisti ci piacciono così tanto, perché quando le registrava per la numero uno, lui chiamava i migliori musicisti che ci fossero in circolazione. C'è questo brano qua che... riascoltato mille volte, ogni volta se ne scopre una sfumatura nuova. Alla chitarra elettrica c'è niente meno che Alberto Radius, ma dietro i tamburi c'è Franz Di Cioccio. La canzone la riconoscerete immediatamente e ditemi se anche questa non è un capolavoro. Si intitola, vabbè, la dico subito, se no devo continuare a parlare, Insieme a te sto bene. Anche in questo caso ascoltate la capacità che ha Di Cioccio di stare con i tamburi dentro l'arrangiamento, come fa da contrappunto. È uno strumento vero, non è più un sostegno ritmico, è uno strumento che parla, che dialoga con il cantato e con la melodia. Un arrangiamento da mettersi le mani nei capelli, eh? Cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementari sì e no. La donna è donna e tu una donna sei. Resta qui con me finché vuoi, che da mangiare c'è. Thank you. sei. Che importa cosa fai? Resta qui con me. Finché puoi. Che freddo non avrai mai. Insieme a te. È grandissimo Lucio Battisti e grandissimo Franz Di Ciocio alla batteria. Allora, adesso io avrei dovuto scegliere un quarto asso per questa, per questo poker, ma alla fine ho scelto di parlare di un percussionista, perché in realtà di batteristi poi ce ne sarebbero stati tantissimi, a dire ad esempio Walter Calloni, o mi viene in mente, non so, Max Furlan, Lele Melotti, che avrà registrato 640.000 dischi, Ella De Bandini, un altro che ha suonato praticamente con tutto il mondo, Agostino Marangolo, Antonio il fratello che suona il sax, Agostino Marangolo, grandissimo tra l'altro coi Goblin, ma non solo con Pino Daniele, ma poi coi Goblin, e poi non so altri, beh, Maurizio De Lazzaretti ad esempio, no, che l'avrete sentito senza ombra di dubbio mille una volta nell'orchestra di Sanremo, ma anche lui ha suonato con un sacco di artisti italiani, non so, Samuele Bersani ad esempio, no? Oppure c'è quello che avrei scelto io per chiudere questo poker, che è Roberto Gatto, il quale merita una menzione speciale. Perché Roberto Gatto, perché poi non l'ho messo? Perché è un jazzista e noi parliamo principalmente di rock e di pop. Roberto Gatto si è ritagliato nel panorama internazionale un posto di primo piano, uno dei pochi batteristi italiani ad essere riuscito a valicare i confini, i batteristi jazz, ed è veramente un batterista straordinario, grandissimo didatta, grandissima sensibilità musicale, uno davvero davvero bravo, ascoltatevi tutte le cose di Roberto Gatto. Ma ho scelto di parlare di un percussionista, giusto per cambiare un po' le carte in tavola. Parliamo di Naco, ovvero sia Giuseppe Bonaccorso, detto Naco per l'appunto. Naco, anche lui prematuramente scomparso, anzi in questo caso troppo prematuramente scomparso, era il talento più fulgido, la stella più luminosa del percussionismo italiano. Davvero un artista strepitoso, lo volevano tutti, ha suonato con chiunque, da Jovanotti a Mango, credo, ha suonato veramente con ogni musicista italiano e poi con artisti internazionali, suonava nei festival di jazz, suonava... Ma veramente... Perché è particolare Naco? Perché innanzitutto aveva il ritmo dentro e una grandissima indipendenza degli arti, ma poi la capacità di saper, come dire, entrare in punta di piedi in un arrangiamento, e però pur essendo entrato in punta di piedi riusciva a elevare tutto quanto a un piano superiore, rendendo tutto magico, meraviglioso. E queste sue sonorità, la capacità di prendere oggetti e trasformarli in corpi sonori, era tutta sua, ed è la grande lezione, perché Naco ci ha insegnato, a noi che percuotiamo oggetti, in quanti modi si può tirar fuori il suono da qualche cosa che produce suono. Ad esempio usava anche elementi elettrici, no? Ho scelto il primo brano, che è un pezzo incredibile, dove lui usa la voce. Usava un microfono ad archetto, sai quelli che si tengono sulla faccia, no? Il microfono ad archetto entrava dentro degli effetti, dei processori vocali, e attraverso questo lui lo faceva rientrare nelle percussioni, insomma faceva tutto un gioco che adesso non sto a spiegarvi, ma vi faccio ascoltare il risultato. È un pezzo divertentissimo, nato da un'improvvisazione fra basso, batteria e percussioni. Al basso c'è Faso, alla batteria Christian Meyer, alle percussioni Naco. Il brano sul quale poi hanno ricamato e si sono divertiti è diventato Agnello Medley, lo mettiamo perché siamo ormai vicini, vicinissimi al clima natalizio. Senti che cosa fa Naco con le percussioni e tutti gli altri due mostri assieme. Questo è lui con la voce, eh? Col bianco tuo candore. Con qui Allora, questo era Naco con Elio e le storie tese. Insomma, questo era un divertissement, no? Veramente un esperimento, un'improvvisazione sulla quale poi loro hanno riaggiunto questo testo. Naturalmente voleva essere un po' ironico, ma insomma, questo era giusto per capire che cosa era capace di fare Naco. Lui si era sviluppato un sistema per suonare. Praticamente diceva: per quale motivo, se io trovo un groove che funziona in un brano, devo poi interromperlo per cambiare strumento? Perché le percussioni servono a colorare, no, i brani. Quindi dice: magari sto suonando un fraseggio sulle timbali, a un certo punto devo passare alle congas, smetto le timbali se prendo le congas, e questo crea delle cesure all'interno del brano. Lui invece si era creato un sistema tutto suo per suonare, per cui con la mano destra continuava a tenere il ritmo e la mano sinistra era libera di colorare e spaziare sul set. Ha suonato veramente con mille una persona. Io ho scelto alcune cose per farvi sentire quelle che ritengo essere un pochino più particolari, ma soprattutto più riconoscibili. Questo è un brano di Vinicio Capossella che si intitola Guiro, che poi è un gioco di parole per parlare del ghiro, ovvero sia del dormiglione. Il guiro in realtà è uno strumento brasiliano, è quell'oggettino che sembra una raganella che fa questa cosa qua. Bianco, lattiginoso, spero in un mal di gola. Alla sveglia chiedo un'ora o niente, mi darò assente, decidere non è mio pregio. Sono nato stanco, ci penserò domani. Ghiro, son ghiro e mi ritiro. Sei mesi sotto le lenzuola, dall'altro lato mi rigiro. I dubbi della vita mi più ci ripenso, più nel letto sprofondo. Alzarmi al freddo e presto, già mai di disgrazie e di guai abbastanza ne passai. Rumino gli stralci di ieri, c'ho sogni più veri e gonfi di desideri nella branda che cancella e spazza, di pensieri aguzzi e vivi, costati una notte di nirvana. Ma se esco fuori, che esco a fare? Stessa parte da rifare. Chiedere aiuto oggi non vale più. Chiamarti poi mi pento, in sabbio prendo tempo. Che tormento. Giro e ancora mi ritiro. E di qui sotto vedo bene che il cambio poi non mi conviene. Devo uscire, trovarmi il posto, l'appartamentino, le ferie in agosto, pagare i soldi, le multe, l'affitto, la carta da bollo per ogni diritto. Allora adesso c'ho son, mi gratto al ritmo del yeah. Son Montugno, il suono di Cuba, il son, questo ritmo meraviglioso, travolgente, questo era Naco. Avete sentito la capacità di colorare un brano con le percussioni? Straordinario. Allora, per chiudere questa puntata siamo arrivati alla fine, maledizione, mi manca il tempo, voglio farvi ascoltare un ultimo brano per tutto quello che riesco a fare. Sarò velocissimo perché è un brano del mio cantautore preferito, non solo del mio, Fabrizio De André, il brano che forse è il suo testamento spirituale, morale e musicale, si intitola Smisurata preghiera, è l'ultimo brano del suo ultimo disco ed è una cosa meravigliosa, travolgente, anche perché assieme alle percussioni bellissime di Naco c'è la batteria di Elio Rivagli, che è il mio batterista italiano preferito in assoluto. Perché non l'ho messo, ve lo spiegherò poi su Facebook, ma perché fondamentalmente Elio Rivagli è uno che è un misto fra Jeff Porcaro e Manu Cacce, insomma è un batterista meraviglioso. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati in nostra e in mia compagnia anche per questa puntata difficile, avrei voluto parlare molto molto di più, mi rendo conto che a volte parlo troppo, a volte troppo poco. Approfondiremo ancora meglio, se volete scrivetemi su Facebook, scrivetemi qua all'indirizzo della radio, potete contattarci attraverso Telegram, cercate Radio 23 o sulla nostra pagina Facebook R23 Milano. Vi saluto, vi ringrazio, io sono Riccardo, questa è Radio 23, questo è Fabrizio De André con Smisurata preghiera. Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, chine e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, d'impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Per chi ad Acaba curò la lebbra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.